Il lavoro come trampolino di lancio per chi vuole servire nel modo giusto Dio. Desidero parlare del lavoro in qualità di pensionato che odora ancora di officina e mi sento di dare il mio contributo per incoraggiare tutti a non snobbare nessun tipo di lavoro. È difficile riassumere le esperienze fatte in 37 anni di lavoro dipendente e che cosa hanno significato per me, ma una cosa è certa. Il lavoro è stato uno strumento di Dio per benedire grandemente la mia vita e quella degli altri. A 15 anni ho iniziato a lavorare nei soli mesi estivi e poi, una volta conseguito il diploma, lo feci a tempo pieno. Le circostanze della vita mi hanno impedito di svolgere un lavoro secondo il mio titolo di studio. Ma una volta diventato credente ho compreso come tutto questo sia stato un bene per me. Ho sentito vari cristiani lamentarsi del loro lavoro nonostante appartenessero ai colletti bianchi, perché tornavano alla sera a casa mentalmente distrutti e incapaci di concentrarsi. Il mio lavoro, benché avesse una larga componente di sforzo intellettuale, non mi riduceva in quelle condizioni. E così, la sera tornavo a casa con un grande desiderio di applicarmi a studiare la parola di Dio. Una volta diventato credente, la mia più grande ambizione è stata quella di testimoniare ai miei colleghi. All'inizio erano curiosi, ma quando si resero conto che parlavo sul serio e vivevo ciò che affermavo, cominciarono ad evitare certi argomenti. Non ero opprimente, non avevo sempre sulla bocca il nome di Gesù, ma non lasciavo cadere per terra le circostanze favorevoli per testimoniare del mio Salvatore. I risultati non sono mancati. Il lavoro che svolgevo era pesante, per cui in officina vi erano solo uomini, ma la ditta a quell'epoca in via di sperimentazione assunse per alcuni anni delle donne. Una di queste un giorno mi si avvicinò e mi chiese: «Vedo che lei è diverso dagli altri. Che cosa che la rende così?» Testimoniai della mia fede e lei ascoltava con vero interesse, amareggiata, solo perché non comprendeva la parola di Dio. Un giorno venne a casa mia tutta raggiante ed esclamò: «Finalmente! Ora so che Gesù è Dio!» Suo marito, che lavorava con me, mi accusò davanti agli altri operai di dividere il suo matrimonio e mi minacciò severamente. Ma, come sta scritto, Dio è astuto con i perversi, e fu così che per una serie di circostanze veramente particolari annunciai l'Evangelo addirittura al suo funerale. Per il lavoro che svolgevo spesso avevo bisogno di un aiutante e così, di tanto in tanto, mi affiancavano gli ultimi arrivati. Un giorno venne ad aiutarmi un giovane del sud appena sposato, che, per motivi di lavoro, era venuto al nord. Testimoniai della mia fede e mi accolse in casa sua. Il Signore aprì il cuore anche a sua moglie e divennero dei figli di Dio. Quando ormai facevo il conto alla rovescia nell'attesa della pensione, tutti i miei colleghi di lavoro, l'ufficio tecnico e il datore di lavoro, conoscevano la mia fede. Pregai il Signore di aprirmi delle porte nuove ed egli mi esaudì. Ogni giorno arrivavano dei fornitori di materiale che andava di volta in volta scaricato. Non vi era un incaricato fisso, per cui il compito di scarico lo svolgeva l'operaio più volenteroso. Ma, dal momento che tale mansione era veramente impegnativa, tutti la evitavano. Così, vedendo con un tale servizio l'opportunità di testimoniare, mi presi a carico tale compito. Un giorno un camionista mi confidò che aveva un parente evangelico e che le cose di Dio non gli erano estranee. Andò via, visibilmente commosso. Solo Dio sa in quale terreno è caduto il seme. Per me il lavoro non è stato un deserto che separa due oasi lontane di vita, anzi, è stato un periodo di preparazione per la mia pensione. Ciò che sono e ciò che sono stato, nei momenti in cui il lavoro me lo permetteva, meditavo, ripensando alla parola di Dio da me letta al mattino. Infatti, alle 6:30 alla sveglia mi ricordava il mio impegno di lettura. Alle 7:30 facevo colazione e prima delle 8 ero in ditta. Avevo scelto un posto di lavoro vicino a casa per non perdere tempo nel viaggio, anche se questo aveva significato una rinuncia ad un buon stipendio. Per me il tempo della lettura biblica era veramente più prezioso dell'oro. Con il passare del tempo ero diventato uno degli operai più importanti, e questo comportava anche dei lati negativi. Su di me veniva scaricato il lavoro più delicato e più urgente, e questo mi creava non piccoli problemi. La ditta esigeva molte ore straordinarie, ed io dovevo di conseguenza fare delle dolorose scelte, o la ditta, o gli impegni spirituali che avevo preso. Così, ogni volta che chiedevo permessi per frequentare studi biblici infrasettimanali, ogni volta che mi assentavo per presenziare i funerali evangelici, ministero sempre più raro, ogni volta che spiegavo le ragioni spirituali del mio assentarmi, erano delle tragedie. Ma non mi sono mai pentito di non essere sempre andato d'accordo con il mio datore di lavoro a causa del regno di Dio, almeno per due motivi. Innanzi tutto il lavoro non è stato lo scopo prioritario della mia esistenza, poi, perché oggi raccolgo i frutti del mio impegno per il regno di Dio. Essere cristiani non è facile, esserlo poi, nel proprio ambiente di lavoro molte volte diventa un'impresa. Operai invidiosi mi hanno fatto del male calunniandomi e sparlando di me. Ma il Signore, poco prima di andare in pensione, mi ha ristabilito agli occhi del datore di lavoro, il quale ha dovuto riconoscere la mia serietà e il mio impegno. Dio è stato ancora una volta fedele perché non mi sono stancato di fare il bene e ne ho raccolto il frutto al tempo opportuno. Invito tutti i giovani ad impegnarsi seriamente sul lavoro, qualsiasi esso sia, di essere leali, sinceri, umili e soprattutto ricordare ciò che Paolo ha ordinato da parte di Dio. Servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Efesini 6, 5 a 8. Dopo 37 anni di lavoro, riconosco che la cosa più difficile per un cristiano operaio, e non solo per lui, è proprio quella di servire per non essere visti. Il voler essere riconosciuto, apprezzato, onorato a qualsiasi costo è la tentazione più grande per il nostro orgoglio. Vi sono cristiani che desiderano andare in pensione con il proposito di servire poi nel regno di Dio, ma non si rendono conto che stanno perdendo 35-40 anni di opportunità di servirlo. Ora sul posto di lavoro. Chi non ha saputo lavorare fino alla pensione come se servisse il Signore e non gli uomini, molto difficilmente saprà lavorare per il Signore in seguito. Il lavoro diventa quindi un trampolino di lancio per chi vuole servire nel modo giusto Dio. Sì, perché non tutti coloro che lavorano nel regno di Dio lavorano nel modo giusto. Ho ancora nelle orecchie ciò che mi disse un giovane: mal che vada sul posto di lavoro vado a servire il Signore. Non è questo il modo per servire nel regno di Dio. Non si serve Dio perché non si ha altro da fare, perché non si sa dove andare. Pochi hanno capito che servire Cristo ha un costo, e se non vi è un costo, meno che potrebbe essere denaro, tempo, carriera, gioventù, molto difficilmente si sta servendo il Salvatore, ma le proprie ambizioni o la propria concupiscenza. La parola di Dio si riferisce spesso al lavoro ed è bene prendere in considerazione alcuni aspetti. Per prima cosa, lavorare non è un optional come alcuni pensano, ma è una necessità della vita, un ordine dato dall'Eterno Dio al primo uomo e alla prima donna creati. Tant'è vero che l'Apostolo Paolo ne diede un esempio quando scrisse: infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio, perché ci imitaste. Infatti quando eravamo con voi vi comandavamo questo: che se qualcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. ordiniamo a quei tali e li esortiamo, nel Signore Gesù Cristo, a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. 2 Tess 3.7.12. Paolo era stato espressamente chiamato da Cristo a predicare l'Evangelo, ma non disdegnava il lavoro e, appena ne aveva l'opportunità, non si tirava indietro. Volendo in questo modo dimostrare come devono vivere i cristiani. Inoltre, Paolo mette in evidenza che avendo ciò che necessita non si è di peso agli altri. Anzi, si può anche aiutare il prossimo. At 23:3-3:5-2, Cor 8, 14:15. Un uomo o una donna che lavorano seriamente e con impegno sono una buona testimonianza in una società tendente al far niente e, soprattutto, sono apprezzati da Dio stesso perché Lui opera fino ad ora. G.V. 5.17. Infatti, il fondamento e la motivazione del lavoro derivano dalla natura e dal carattere di Dio, G1.19, per cui chi non lavora come si deve viene meno, se non al primo, a uno dei primi comandamenti di Dio. Vi è un anatema nella Bibbia, relativamente al quale non ho mai sentito un commento a causa dell'imbarazzo che procura, ma che non può essere ignorato in queste riflessioni. Esso si trova in Geremia 48.10. Maledetto colui che fa l'opera dell'Eterno fiaccamente. Ger 48.10. Non so esattamente in che cosa consiste la maledizione, ma una cosa è certa. Lavorare per Dio con l'intento di non lavorare o con mano pigra. PR 10.4. È una grande disgrazia. Che Dio ci guardi da questa terribile sventura. Novembre 2009. Ellero.